da tutte le parti. Ad alta voce, Marco Foschi legge Doppio sogno di Arthur Schnitzler, traduzione di Giuseppe Farese. Fridolin si trovava nella grande, ampia piazza di fronte al municipio e volgeva lo sguardo da tutte le parti. Non scorse che poche persone. Il signore sospetto del caffè non era fra loro. E anche se così fosse, quei signori avevano paura. Lui era in una posizione di forza. Fridolin riprese il suo passo veloce. Al ring noleggiò una carrozza. Si fece prima condurre all'hotel Bristol e si informò dal portiere come se fosse autorizzato o a ciò delegato se la baronessa D, che come era noto si era avvelenata la mattina, aveva abitato in quell'hotel. Il portiere non sembrò meravigliarsi affatto. Pensò che Fridolin fosse un funzionario di polizia o un altro pubblico ufficiale. Comunque rispose cortesemente che la triste vicenda non si era verificata lì, ma all'hotel Herzerzog Karl. Fridolin si recò subito all'hotel indicato e apprese che la baronessa D era stata trasportata al policlinico immediatamente dopo il suo ritrovamento. Fridolin si informò su come avevano scoperto il tentativo di suicidio. Cosa li aveva spinti a darsi pensiero già verso mezzogiorno di una signora che era rientrata solo alle 4 del mattino? Ma molto semplice. Due signori, dunque ancora quei due signori, avevano chiesto di lei alle 11. Poiché la signora non aveva risposto a ripetute chiamate telefoniche, la cameriera aveva bussato alla porta. Poiché anche quel tentativo era risultato vano e la porta era chiusa dall'interno, si erano visti costretti ad abbatterla e così avevano trovato la baronessa sul letto, priva di sensi. Avevano subito avvertito il pronto soccorso e la polizia. «E i due signori?» chiese Fridolin tagliente, e gli sembrò di essere un agente in borghese. «Sì, i due signori erano nel frattempo spariti senza lasciar traccia, il che dava naturalmente da pensare. Del resto non poteva assolutamente essersi trattato di una baronessa Dubieschi, nome con cui la signora era stata registrata nell'hotel. Era la prima volta che scendeva in quell'albergo e non esisteva affatto una famiglia di quel nome. In ogni caso, quello non era il nome di una famiglia nobile». Fridolin ringraziò per le informazioni e si allontanò piuttosto in fretta, poiché uno dei direttori dell'hotel, avvicinatosi in quel momento, cominciava a squadrarlo con importuna curiosità. Salì di nuovo in carrozza e si fece condurre all'ospedale. Pochi minuti dopo, all'ufficio accettazione, apprese non solo che la presunta baronessa Dubieschi era stata ricoverata nella seconda clinica interna, ma anche che, nonostante tutte le cure dei medici, era morta, senza aver ripreso conoscenza, alle 5 del pomeriggio. Solo una sua impressione, poiché in realtà gli era sfuggito un profondo sospiro. L'impiegato di servizio lo guardò con un certo stupore. Fridolin si riprese subito, si congedò cortesemente e un minuto dopo era già all'aperto. Il giardino dell'ospedale era quasi deserto. In un viale vicino, un'infermiera in camice a strisce bianche e azzurre e cuffia bianca passava in quel momento sotto un lampione. «Morta», disse Fridolin fra sé. «Se è lei. E se non è lei? Se vive ancora? Come potrò trovarla?» Dove fosse in quel momento il cadavere della sconosciuta, era facile indovinarlo. Poiché era morta solo poche ore prima, giaceva in ogni caso nella camera mortuaria, a soli pochi passi da lì. Come medico, non avrebbe naturalmente incontrato difficoltà per entrare anche a quell'ora. Tuttavia, che cercava lì dentro? Conosceva solo il suo corpo. Il viso non l'aveva mai visto. Ne aveva solo avuto un'immagine fugace la notte scorsa, nell'attimo in cui aveva lasciato la sala da ballo, o per meglio dire, quando ne era stato cacciato. Eppure, il non aver fino allora considerato quella circostanza derivava dal fatto che per tutto il tempo trascorso dal momento in cui aveva letto quella notizia sul giornale, si era rappresentata la suicida, il cui volto gli era sconosciuto, con i lineamenti di Albertine, e che, come si accorse solo ora rabbrividendo, aveva continuamente avuto davanti agli occhi l'immagine della moglie, identificandola con colei che cercava. E ancora una volta si chiese cosa mai volesse nella camera mortuaria. Sì, se l'avesse ritrovata viva oggi, domani o anche a distanza di anni, in qualsiasi luogo e occasione, era convinto che l'avrebbe senza dubbio riconosciuta dall'andatura, dal portamento e più di tutto dalla voce. Ora però avrebbe rivisto soltanto il corpo, un corpo morto di donna, e un volto di cui non conosceva che gli occhi, occhi ormai spenti. Sì, quegli occhi li conosceva, e quei capelli, che nell'ultimo istante prima che lo cacciassero dalla sala si erano improvvisamente sciolti e avevano velato il corpo nudo. Ma sarebbe bastato a dargli la certezza della sua identità. E a passo lento e incerto si diresse verso l'istituto di anatomia patologica, attraverso i ben noti cortili. Trovò il portone aperto e non dovette suonare il campanello. Il pavimento di pietra rimandava l'eco dei suoi passi mentre attraversava il corridoio, rischiarato, debolmente. Un odore familiare, in certo modo domestico, di sostanze chimiche di ogni genere che copriva le esalazioni proprie di quell'edificio, avvolse Fridolin. Bussò alla porta del gabinetto istologico, dove poteva supporre che si trovasse ancora qualche assistente al lavoro. Dopo un «Avanti!» un po' brusco, Fridolin entrò nella stanza dal soffitto alto illuminato addirittura con sfarzo, al centro della quale, appena sollevato l'occhio dal microscopio, come Fridolin s'era quasi aspettato, si alzò dalla sedia il dottor Adler, suo vecchio compagno di studi e assistente all'istituto. «Ah, caro collega!» lo salutò il dottor Adler, sempre un po' irritato, ma al tempo stesso sorpreso. «Quale onore a un'ora così insolita!» «Scusa il disturbo», disse Fridolin. «Vedo che sei in pieno lavoro.» «Appunto», riprese Adler con tono tagliente che lo distingueva sin da quando era studente, e aggiunse più calmo: «Che altro si potrebbe fare a mezzanotte in queste sacre sale? Ma naturalmente non mi disturbi affatto. In cosa posso esserti utile?» E poiché Fridolin non rispose subito: «Quell'Addison che ci avete consegnato oggi giace ancora lì graziosamente intatto. Autopsia domattina 8:30. E a un cenno di diniego di Fridolin: «Ah, capisco. Il tumore alla pleura. Beh, ebbene, l'esame istologico ha rilevato un irrefutabile sarcoma. Anche per questo non avete dunque bisogno di farvi venire i capelli grigi.» Fridolin scosse di nuovo il capo. «Non si tratta di una cosa di lavoro.» «Beh, tanto meglio», disse Adler. «Cominciavo già a credere che fosse stata la cattiva coscienza a portarti fin qui nottetempo. Si tratta comunque di cattiva coscienza. O almeno di coscienza in genere», rispose Fridolin. «Oh!» In breve, cercò di assumere un tono distaccato, ingenuo, desidererei avere informazioni di una donna morta nel pomeriggio nella seconda clinica, in seguito ad avvelenamento da morfina, e che ora dovrebbe trovarsi qui, una certa baronessa Dubieschi.» E continuò più in fretta: «Ho l'impressione che questa presunta baronessa Dubieschi sia una donna che ho conosciuto fugacemente anni fa, e mi interesserebbe sapere se la mia supposizione è esatta.» «Suicidium?» chiese Adler. Fridolin annuì. «Sì, suicidio», tradusse quasi desiderando restituire alla faccenda il suo carattere privato. Adler composò sentimenti in con Fridolin. «Amore infelice per vossignoria illustrissima», Fridolin negò alquanto seccato. «Il suicidio della baronessa Dubieschi non ha nulla a che fare con la mia persona.» «Scusa, scusa, non volevo essere indiscreto. Possiamo accertarci subito. Che io sappia, stasera non è giunta alcuna richiesta della medicina legale. Comunque...» «Esame necroscopico legale», balinò in mente a Fridolin. «Forse poteva ancora essere ordinato. Chissà se il suo suicidio era poi volontario.» Si ricordò di nuovo di quei due signori che erano improvvisamente spariti dall'hotel dopo aver appreso del tentativo di suicidio. La faccenda potrebbe ancora diventare un caso criminale clamoroso, e chissà se lui, Fridolin, non sarebbe addirittura chiamato a testimoniare. Eh già, ma Non era poi suo dovere presentarsi spontaneamente alla polizia? Seguì il dottor Adler attraverso il corridoio fino alla porta di fronte, che era semiaperta. La stanza, spoglia e dal soffitto alto, era illuminata debolmente dalle due fiamme un po' abbassate di un lampadario a gas a due bracci. Dei 12 o 14 tavoli anatomici, solo pochi erano occupati. Alcuni corpi erano nudi, sugli altri erano distesi dei lenzuoli. Fridolin si avvicinò al primo tavolo, proprio accanto alla porta, e sollevò cautamente il lenzuolo dalla testa del cadavere. Un abbagliante raggio di luce si sprigionò improvvisamente dalla lampadina tascabile del dottor Adler. Fridolin vide un volto giallo di uomo dalla barba grigia e lo ricoprì subito col lenzuolo. Sul tavolo accanto giaceva il corpo nudo e magro di un giovanotto. Il dottor Adler disse da un altro tavolo: «Una fra i 60 e i 70, neanche questa sarà quella che cerchi». Ma Fridolin, come attratto da una forza improvvisa, andò in fondo alla sala, dove riluceva pallido un corpo di donna. La testa era piegata da un lato. Lunghe ciocche di capelli scuri ricadevano fin quasi a terra. Istintivamente Fridolin allungò la mano per rimettere a posto la testa. Poi, con una timidezza a lui medico altrimenti estranea, esitò. Intanto si era avvicinato il dottor Adler e, accennando ai corpi alle sue spalle, osservò: «Nessuno che possa interessarti». «Allora è quella?» E illuminò con la lampada tascabile la testa di donna che Fridolin, vincendo la sua timidezza, aveva preso fra le mani e sollevato un po'. Un volto bianco, con le palpebre semiaperte, lo fissò. La mandibola pendeva floscia. Il labbro superiore piccolo e alzato lasciava vedere la gengiva bluastra e una fila di denti bianchi. Era mai stato bello quel volto? O forse lo era ancora il giorno prima? Fridolin non avrebbe potuto dirlo. Era un volto completamente insignificante, vuoto, un volto morto. Poteva benissimo appartenere a una diciottenne, come a una trentottenne. «E lei?» chiese il dottor Adler. Fridolin istintivamente si avvicinò ancora di più alla morta, quasi che, acuendo lo sguardo, potesse strappare una risposta a quei lineamenti irrigiditi, e al tempo stesso capì. Anche se quello era davvero il volto di lei, e quegli occhi, gli stessi che ieri sera si erano fissati così caldi di vita nei suoi, non l'avrebbe mai saputo. Non poteva saperlo. Forse non lo voleva affatto. Ripose dolcemente la testa sul piano del tavolo e fece vagare lo sguardo sul corpo della morta, accompagnato dalla luce mobile della lampadina tascabile. Era proprio il suo corpo? Quel corpo meraviglioso, fiorente, solo ieri così tormentosamente desiderato? Vide un collo giallastro, avvizzito. Vide due seni di ragazza piccoli e tuttavia già cascanti, fra i quali, come un segno della decomposizione in atto, lo sterno si disegnava con crudele chiarezza sotto la pelle pallida. Vide la rotondità bruno opaca del basso ventre. Vide come da un'ombra scura, ormai priva di segreto e di senso, si aprivano, insignificanti, le gambe ben formate. Vide i ginocchi leggermente divaricati, gli spigoli vivi degli stinchi e i piedi snelli con le dita piegate in dentro. Poi tutto ripiombò rapidamente nel buio, perché il cono luminoso della lampadina tascabile tornò indietro di scatto e si fermò oscillando leggermente sul volto pallido. Istintivamente, quasi costretto e guidato da una forza invisibile, Fridolin sfiorò con le mani la fronte, le guance, le spalle, le braccia della morta. Poi intrecciò le sue dita in quelle di lei come in un gioco d'amore. E per quanto fossero rigide, gli sembrò che esse cercassero di muoversi e di ricambiare la stretta. Ebbe persino l'impressione che sotto le palpebre semichiuse uno sguardo estraneo e spento andasse in cerca del suo e, come attratto magicamente, si chinò su di lei. In quell'attimo udì sussurrare dietro di sé: «Ma che fai?» Fridolin si riebbe subito, sciolse le sue dita da quelle della morta, prese i suoi polsi sottili e ripose accuratamente, quasi con pedanteria, le braccia gelide accanto al busto. E gli sembrò che quella donna fosse morta solo in quel momento. Poi si allontanò, si diresse verso la porta e, attraverso il corridoio che risuonava sotto i suoi passi, rientrò nel gabinetto di istologia dal quale era uscito poco prima. Il dottor Adler lo seguiva in silenzio e richiuse la porta. Fridolin andò al lavabo. «Permetti?» disse. E si lavò accuratamente le mani con l'isolo e sapone. Frattanto il dottor Adler se stava bevole per le sul territorio interrotto. Aveva acceso di nuovo la luce adatta, girò la vite micrometrica e guardò nel microscopio. Quando Fridolin si avvicinò per salutarlo, il dottor Adler era di nuovo immerso nel suo lavoro. «Vuoi dare un'occhiata al preparato?» chiese. «Perché?» rispose Fridolin assente. «Ma solo per tranquillizzare la tua coscienza», replicò il dottor Adler, come se in fondo ammettesse che la visita di Fridolin aveva avuto soltanto uno scopo medico-scientifico. «Ti orienti?» chiese, mentre Fridolin guardava il microscopio. «Si tratta di un metodo di colorazione abbastanza nuovo». Fridolin annuì senza allontanare l'occhio dallo strumento. «Addirittura ideale», osservò. «Un'immagine dai colori sfarzosi, si direbbe». E chiese informazioni su diversi particolari della nuova tecnica. Il dottor Adler gli diede i chiarimenti desiderati e Fridolin fu del parere che quel nuovo metodo gli sarebbe stato probabilmente molto utile per un lavoro che intendeva svolgere nel prossimo futuro. Chiese di poter tornare domani o dopodomani per avere ulteriori spiegazioni. «Sempre a tua disposizione», disse il dottor Adler. Accompagnò Fridolin sulle mattonelle di pietra fino al portone, che nel frattempo era stato chiuso, e lo aprì con la propria chiave. «Ti trattieni ancora?» chiese Fridolin. «Ma naturalmente», rispose il dottor Adler. «Queste sono le ore più belle per lavorare, all'incirca da mezzanotte all'alba. Perlomeno sei abbastanza sicuri di non essere disturbati». «Ma», osservò Fridolin, con un lieve sorriso e com'è consapevole d'essere stato importuno. Il dottor Adler appoggiò la mano sul braccio di Fridolin per assicurarlo che non era così e poi chiese con discrezione: «Dunque, era lei?» Fridolin esitò un attimo. Poi annuì in silenzio, quasi senza rendersi conto che quell'affermazione poteva essere una bugia. In realtà di una cosa era certo. Anche se la donna che aveva cercato, desiderato e forse amato per un'ora viveva ancora, e qualunque fosse stata la sua vita futura, anche se colei che giaceva ora nella camera mortuaria era la stessa che 24 ore prima aveva stretto nuda fra le braccia al suono selvaggio del pianoforte di Nachtigal, o un'altra, una sconosciuta, un'estranea mai incontrata prima, il corpo che giaceva alle sue spalle nello stanzone avvolta al lume delle fiammelle a gas oscillanti, ombra fra le ombre, e come quelle, oscuro e privo di senso e di segreto, non rappresentava per lui, né poteva rappresentare ormai, che il cadavere pallido della notte passata, destinato irrevocabilmente alla decomposizione. Si affrettò a tornare a casa per le vie buie e spopolate, e alcuni minuti più tardi, dopo essersi spogliato nello studio come 24 ore prima, entrò nella camera da letto cercando di fare meno rumore possibile. Udì il respiro tranquillo e regolare di Albertine e vide profilarsi sul cuscino morbido i contorni della sua testa. Fu preso da un inaspettato senso di tenerezza, anzi di sicurezza, e si propose di raccontarle presto, forse già domani, la storia della notte passata, facendo però in modo che le esperienze vissute apparissero come un sogno. Poi, quando lei si fosse resa conto di tutta la vanità delle sue avventure, le avrebbe confessato che si trattava invece di realtà. Realtà? Si chiese. E in quell'attimo scorse sul cuscino accanto ad Albertine, sul suo cuscino, qualcosa di scuro, di delimitato come le linee in ombra di un volto umano. Ebbe solo un attimo di sbigottimento e poi capì subito di che si trattava. Allungò la mano verso il cuscino e prese la mascherina che aveva portato la notte precedente e che doveva essergli caduta inavvertitamente la mattina mentre riponeva il costume. Forse era stata poi trovata dalla cameriera o dalla stessa Albertine. Così non poté neppure dubitare che Albertine, dopo quel ritrovamento, non nutrisse dei sospetti e immaginasse probabilmente cose più gravi di quanto era realmente accaduto. Tuttavia, il modo in cui glielo faceva intendere, l'idea di mettere accanto a sé sul cuscino la mascherina scura, quasi a simboleggiare il volto del marito divenuto le enigmatico, quel modo scherzoso e quasi spavaldo con cui sembravano manifestarsi al contempo un lieve ammonimento e l'intenzione di perdonare, fecero sperare fermamente a Fridolin che ella, ricordandosi forse anche del proprio sogno, qualunque cosa potesse essere accaduta, fosse propensa a non prenderla sul serio. Ma Fridolin, improvvisamente, allo stremo delle forze, lasciò scivolare a terra la mascherina. Scoppiò, con sua stessa sorpresa, e in singhiozzi disperati. Cadde poi accanto al letto e pianse sommessamente, affondando la testa nei cuscini. Dopo pochi secondi sentì una mano sfiorargli morbidamente i capelli. Sollevò la testa e dal profondo dell'animo proruppe: «Ti racconterò tutto». Albertine fece dapprima un leggero cenno di diniego con la mano che egli prese e trattenne nelle sue. Fridolin guardò la moglie con un'espressione allo stesso tempo di domanda e preghiera. Poi lei annuì ed egli cominciò a raccontare. Quando Fridolin terminò il suo racconto, il giorno spuntava grigio attraverso le tendine. Albertine non l'aveva interrotto neppure una volta, con una domanda curiosa o impaziente. Sentiva che egli non voleva, né poteva, nasconderle nulla. Giaceva tranquilla, con le braccia intrecciate dietro la nuca, e tacque ancora a lungo quando Fridolin aveva già finito da un pezzo. Finalmente era disteso al suo fianco. Egli si chinò su di lei e, fissando il suo volto immobile dai grandi occhi chiari, nei quali adesso sembrava riflettersi il sorgere del giorno, chiese, dubbioso e pieno di speranza. «Che dobbiamo fare, Albertine?» Lei sorrise e dopo una breve esitazione rispose: «Ringraziare il destino, credo, di essere usciti incolumi da tutte le nostre avventure, da quelle vere e da quelle sognate». «Ne sei proprio sicura?» chiese Fridolin. «Tanto sicura da presentire che la realtà di una notte, anzi, neppure quella di un'intera vita umana, non significano al tempo stesso anche la loro più profonda verità. E nessun sogno», disse egli con un leggero sospiro, «è interamente un sogno». Albertine prese la testa del marito fra le mani e la tirò affettuosamente a sé. «Ma ora ci siamo svegliati», disse, «per lungo tempo». «Per sempre», voleva aggiungere Fridolin, ma prima ancora che pronunciasse quelle parole, lei gli pose un dito sulle labbra e sussurrò come fra sé: «Non si può ipotecare il futuro». Rimasero così in silenzio, soltanto l'uno vicino all'altro, senza sognare. Finché, come ogni mattina, alle 7, bussarono alla porta e con gli abituali rumori della strada, con un vittorioso raggio di luce penetrato attraverso lo spiraglio della tenda e un chiaro riso di bambina dalla stanza accanto, cominciò il nuovo giorno.